La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Buon 25 aprile, buon sabato, buon weekend, buon cinema a tutti da Franco D'Assisti. Questa è la rosa purpurea che non si ferma neanche il giorno del settantennale della liberazione, anzi, liberazione è anche uno dei temi, insomma, del grande cinema italiano del dopoguerra. Tra l'altro, fra poco proclameremo il vincitore della nostra iniziativa Una Mattina, fatta insieme alla Coop Lombardia, per appunto stabilire il film della rosa purpurea fra quelli che hanno raccontato la Seconda Guerra Mondiale e appunto la liberazione. 25 aprile, cinematografico, quindi. Stavolta a liberarci, scusate il paragone, veramente veramente terra terra, sono arrivati gli Avengers con il nuovo film della Disney, Age of Ultron, che è il seguito del primo Avengers. Qui siamo qualche anno dopo, lo Shield come sapete è stato smantellato, i Vendicatori, gli Avengers agiscono un po' ognuno per ragion propria. C'è però un pericolo ulteriore, quello di un futuro che a Tony Stark appare piuttosto difficile. E allora ecco la chiave di volta, Ultron, un'idea che potrebbe proteggere la Terra nonostante appunto lo sparpagliamento degli Avengers, ma che mostra di avere un po' troppa personalità propria. Il manico ha un'incisione. Chiunque abbia l'impronta di Thor, credo sia la traduzione letterale. Sì, beh, una teoria molto interessante. Io ne ho una più semplice. Nessuno di voi è degno. No. Davvero? No, ma dai. Dai, falla finire. Come potete essere degni? Siete marionette aggrovigliate nei film. È la fine. Come sempre buoni e cattivi, cattivi cattivissimi, il tema viene affrontato, l'ostacolo, il nemico viene affrontato in maniera molto robusta, ma si dimostra che ha diverse anime per poter sfuggire all'assalto appunto dei buoni. Allora, Avengers Age of Ultron, ce n'era bisogno? Certo, a livello commerciale, questo è uno di quei film in cui la critica non conta niente. Cioè, puoi dire che è uno schifo totale, puoi dire che è un capolavoro, incasserà lo stesso e le stesse cifre, perché questi film sono fatti così. Boris Sollazzo è in collegamento con noi, lo saluto, buon 25 aprile anche a Boris. Buona liberazione, liberiamoci degli Avengers. Liberiamoci degli Avengers, se proprio dobbiamo fare qualcosa, che stavolta loro sono venuti qui con tutte le buone intenzioni, ma insomma anche con un film che è davvero così così. Come dicevo Boris, cinema questo che per noi è insomma mortificante, perché puoi dire che ha una serie di difetti, adesso li elenchiamo, a parte la prima ora di una noia mortale, attori sempre in posa, battute che sembrano scritte mentre diciamo così ti tagliavi le unghie, tanto per usare un eufemismo passabile anche in radio, attori che alcuni dei quali soprattutto sembrano aver accettato la parte perché il cachet era davvero irrinunciabile. Insomma, non mi sembra che sposti assolutamente niente, mi sembra che invece alla fine il film latiti. Però, ciononostante, ci scommettiamo tutti, questo non sposterà davvero un euro negli incassi al box office. Assolutamente no, è anche normale così, insomma, per questi film di queste dimensioni, di questa portata, non solo commerciale ma anche nell'immaginario, è inevitabile che vadano oltre qualsiasi considerazione critica, fanno parte della cultura pop degli ultimi anni, insomma, pensiamo solo ad Iron Man, a Tony Stark, a Robert Downey Jr., è faticoso ormai dividere questi tre nella testa delle persone, soprattutto per il povero Downey Jr. che è costretto ormai a interpretare una parte anche fuori. E Paul Bettany l'ha proprio detto, quello che dicevi tu, nel senso ha detto: io sono passato da un buon cachet per recitare solo in voce a una percentuale sugli incassi, non potevo assolutamente rifiutare. E l'impressione però è che siano troppo onesti in questo loro volontà di essere, di lavorare, di guadagnare, tanto che si vede anche nel film. È molto curioso come Avengers Age of Ultron sia venuto così male, perché in ogni caso io sono un fan di questo Marvel World, credo che abbia dato molto comunque a un certo cinema supereroistico, facendolo uscire fuori da una trama infantile e costruendo un universo molto simile a quello dei fumetti, molto maturo e molto adulto. Chiaramente, per quanto possa essere adulto e adulta una storia che preveda degli adulti in calzamaglia e in costume attillato. E detto questo, Age of Ultron è un po' un segnale preoccupante, perché da una parte è Josh Whedon, che è uno straordinario regista di questo tipo di film e sceneggiatore, che su IMDb non ha futuri progetti. Si pensava che stesse preparando Civil War o che stesse preparando un grande progetto in segreto. L'impressione, dopo aver visto Age of Ultron, è che questa assenza di progetti nasca da un'assenza di ispirazione. E poi, francamente, di tutte le storie interessanti che si potevano andare a pescare, quella dell'ennesima rivolta delle macchine era veramente quella meno interessante, meno difficile, più difficile da portare avanti, perché francamente persino un android, questo luddismo 3.0, ce l'ha propinato in qualsiasi momento. Il resto è proprio un album delle figurine, no? Come quello della Panini. Hai l'impressione a ogni scena di dire: questa l'ho già vista, questa l'ho già vista, questa non l'ho già vista. Peccato che però quelle che non abbiamo già viste sono poche. Riguardano forse Hulk e qualcosa di Tony Stark quando parla, e però devo dire che anche l'ipotesi che arriverà un altro Hulk, per come l'abbiamo visto qua, è davvero deprimente. Insomma, non vorrei che questo Age of Ultron sia l'inizio della fine del più fortunato franchise degli ultimi anni, e di un franchise che tra l'altro ha salvato in parte l'industria di Hollywood. Però è veramente forse la prima volta in cui si nota una crisi vera, sia creativa sia, a mio parere, tecnica, per quanto riguarda i film Marvel. Un esercito di alieni ostili attraversò un buco nello spazio. Erano a 100 metri da noi. Siamo gli Avengers. Possiamo bloccare trafficanti d'armi tutto il giorno, ma quello lassù, quello è il Game Over. Come pensavate di sconfiggerlo? Insieme. E allora, Avengers Age of Ultron, viabilità, torniamo fra poco e ci sarà con noi un ospite davvero inatteso, Raz Degan, lo ricordate, la grande pubblicità storica, mitica, che ha fatto sognare soprattutto tante fanciulle, è diventato un bravo direttore della fotografia in un film davvero insospettabile, fra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW, info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Non so perché. Non so perché. Perché? Non so perché. Perché? Sono fatti miei. L'avevamo lasciato così, una bella ventina abbondante di anni fa. Lo ritroviamo straordinario direttore della fotografia di un film bellissimo che personalmente ho visto al Bergamo Film Meeting un mesetto fa e che adesso finalmente arriva nelle sale cinematografiche italiane. Si intitola Il figlio d'Hamas. Lui è Raz Degan, che è al telefono con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Raz, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ma come la curiosità è forte, come sei diventato direttore della fotografia al cinema? È una passione che ti portavi da tanto? Come sei approdato a questa missione? Credo che era un percorso proprio che è avvenuto in modo molto inaspettabile anche per me, perché per anni giravo sempre con la camera in mano, ero appassionato della fotografia e del video, ho cominciato a fare un percorso mio da fare documentari corti. Un giorno ho visto uno dei miei documentari, il produttore di questo film, del figlio di Hamas, che sono le stesse produttori del Searching for Sugar Man, Man on Wire, One Day in September, che sono tutti e tre film che hanno vinto l'Oscar, e mi è andato proprio bene, che hanno piaciuto il modo mio di usare la camera, e mi hanno chiesto di girarli un pezzo del film che era nel Gaza, nella striscia di Gaza e nel West Bank. E sono andato là, ho cominciato a girare così un po' in modo giornalistico, in modo dell'indagine, ma la materiale era buono e così mi hanno chiamato da nuovo a girare in modo più serio. Siamo andati là, abbiamo girato il film. Questo film era per me una conferma che esiste una storia che sono più grande del fiction, vuol dire storie di gente normale, anonime, che hanno tanto da raccontare che non magari vediamo attraverso il struttura media di portare avanti fiction in televisione o varie altre cose, mi ha dato una grande stima di provare. Infatti continuavo dopo questo film a fare il mio film come regista per documentari sempre, e mi ha aperto un portale nuovo della mia vita. Sono già 3 anni e mezzo che faccio questo. Vabbè, straordinario. Tra l'altro devo dire con una grande riuscita, perché la fotografia in questo film ha un ruolo molto molto importante. Le luci di quella terra, il racconto dell'ombra delle celle, degli interrogatori, insomma, è sicuramente ha un peso molto forte. Ricordiamo in breve la storia di davvero del figlio di Hamas, perché di un ragazzo figlio di un leader di Hamas che a un certo punto, diciamo, viene cooptato dai servizi segreti israeliani e diventa una sorta di agente infiltrato, però grazie alle sue notizie, alle sue informazioni, si riescono ad evitare una serie di attentati e quindi a salvare una serie di vite. È l'eterno dilemma, Raz, se poi alla fine la pace la fanno gli uomini di buona volontà più che gli stati e i sistemi. Certo, dimostra anche la potere che hanno due persone di cambiare il mondo, insomma, e il coraggio che questi due personaggi hanno dimostrati, e l'amicizia che è nata di due persone che erano nemici. Allora, se questi due persone possono diventare nemici, guarda, possiamo magari fare tanto in questo mondo che ancora non siamo provati. Certo. Senti, parlavi di un tuo film a cui stai lavorando, appunto. Ci puoi dire qualcosa su che cosa è questo documentario che stai facendo? Sono 3 anni e mezzo che sto seguendo un ragazzo americano di Harvard, privilegiato, che è caduto in diciamo in depressione seria, e ci dà 10 mesi di tempo di vivere se non trovo una cura diversa del tutte cure che hanno proposto in America attraverso pure l'elettroshock. E questo va a un viaggio, un'avventura incredibile per cercare di trovare una cura per salvare la sua vita. Certo, beh, tema molto molto profondo, anche questo è molto molto interessante. Raz, grazie davvero per essere stato con noi, complimenti per il tuo lavoro nel Figlio di Hamas, grazie, che è un film che noi consigliamo di andare a vedere, perché bellissimo, molto molto bello. Tra l'altro non pensate a una roba noiosa, un documentario sulle relazioni fra Palestina e Israele, no, è una cosa che ha un ritmo davvero elettrizzante, ti tiene attaccato alla poltrona, ed è una storia che dimostra, Raz, ti faccio proprio un'ultima considerazione, dimostra come il cinema ancora oggi molto spesso, per andare in fondo alle cose, sia lo strumento migliore, perché non c'è TV, non c'è telegiornale che tenga questa storia qui più che il cinema non poteva raccontarla. Sì, una storia grande, una storia più grande della storia che vediamo ogni giorno in televisione, questo è vero. E anche questo film è stato nominato come miglior film in Sundance, comunque è un film importante che la gente vedano e dà speranza. Perfetto, grazie, buone cose, Raz Degan. Grazie a voi. E al cinema c'è Il Figlio di Hamas. Ciao. Buona giornata, ciao ciao. E allora, Raz Degan alla Rosa Purpurea, è il momento di giocare, come sempre, con il nostro film misterioso. Io non ho bisogno di stima, o di gloria, o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita. E allora, se avete già individuato di che film si tratta, è un film di cui si è parlato moltissimo all'inizio di questa stagione, La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo e provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di un film che fra poco vi faremo riascoltare. Andiamo avanti con le proposte cinematografiche di questo fine settimana in sala, con un film che raccoglie elementi, diciamo così, ingredienti che al cinema hanno già dato vita a parecchi capitoli importanti, quello dell'eterna giovinezza, quello di una vita che va oltre la mortalità. Stiamo parlando di Adalyn, l'eterna giovinezza. Dunque, allora, dove stai andando? In un posto dove si mangia meglio, me ne vado a casa mia. Ah. E tu invece? Me ne torno alla festa. Volevo solo scendere per 27 piani con te. Questa è stata una mossa rischiosa. Quale? Lasciare la tua fidanzata di sopra. Spero ne sia valsa la pena. Di cosa stai parlando? Oh, andiamo. Quella bella donna in blu. Per caso ha un cognome che termina in cova? No, il suo nome è Agnes Boggs. Suo zio è lo chef, gli dirò che ti piace la sua cucina. E allora, Adaline Bowman, classe 1908, ha 29 anni, rimane vittima di un incidente d'auto, tra l'altro, insomma, rimanere vittima di un incidente d'auto nel 1937, voglio dire che ci fosse proprio tutto sto traffico, dopo questo incidente, paradossalmente, diventa immortale. E da quel momento in poi smette di invecchiare e supera gli anni. Chiaramente, come sempre accade in questi casi, sarà l'amore a fare un po' di cartina al tornasole della verità di questa vita strana. Sarà l'amore a volerla far fermare, a volerla far star lì, a volere che gli anni non siano fermi solo per lei ma anche per la persona amata. Sarà l'amore a farla vacillare. Vuoi un rullo di tamburo? Voilà! Ero indeciso fra questi e le quaglie ripiene. Ti prego, non dirmi che sei delusa. Io non vedo l'ora di assaggiarli. Sì! Serviti. Va bene. Allora? È appetitoso, quanto invece la musica è orribile. Non ti piace il jazz? No, mi piace molto, ma questa è un'altra roba. Boris, Adaline, l'eterna giovinezza, metti un pezzo di un pizzico di Highlander e un pizzico di Benjamin Button, e insomma, non è fatto il gioco, ma tutto sommato siamo da quelle parti. Sì, diciamo anche che se c'è un viso che merita di rimanere immortale, quello è di Blake Lively, quindi è anche giusta la scelta. Paradossalmente è un film su cose che abbiamo stravisto in questi anni e che hanno un po' ossessionato il nostro immaginario, perché penso anche a Twilight, penso a Lasciami Entrare, all'idea che poi non è così strana, visto il nostro concetto di bellezza, come vengono trattate le modelle, insomma tutta l'estetica che è cambiata su un'eterna giovinezza, appunto su un'ossessiva ricerca del mantenimento di un'età che non c'è più. Era inevitabile che poi il cinema, attraverso metafore, attraverso i filtri del genere come i film vampireschi, arrivasse a questo punto. Devo dire che ci è arrivato e ci è rimasto per lungo tempo in varie declinazioni, purtroppo molte sono pop e poco interessanti. Questa Adaline ha il pregio di essere un po' diverso da tutti quanti, prende un po' da tutti, perché come dici tu c'è tanto David Fincher, c'è anche tanto secondo me Jarmusch in Solo gli amanti sopravvivono, e appunto in qualche modo c'è anche Highlander, no? Nella parte più normale, quella in cui lei sostanzialmente capisce che la quotidianità non fa per lei, perché deve cambiare vita, deve cambiare nome, deve cambiare affetti, perché inevitabilmente lei sopravviverà a loro, fino a che appunto l'incontro con l'amore non cambia le cose, e là bisogna fare una scelta: o cristallizza tutto come fa Jarmusch, o in qualche modo questa lotta contro il tempo al contrario, come succede in Fincher, va affrontata, soprattutto se poi si scopre che c'è qualcosa in più. È curioso Adaline, come dicevo, perché non ha la profondità dei film più d'autore di questo tipo, quindi Jarmusch e Fincher, e non ha però neanche la furbizia pop e popolare dei film di genere come Twilight, come Highlander. È un film medio, è un film che si cerca il suo significato, la sua forza tra queste due cose, non riuscendo ad arrivare al livello di nessuna delle due, ma trovando un suo linguaggio, trovando un suo particolare momento. E la medietà non diventa mai mediocrità, diventa un modo per parlare sostanzialmente a tutti, cioè sia a chi vede Fincher sia a chi vede Twilight, e secondo me non è poco. La Lively finalmente fa un film in cui non sembra, parlando alla Boris, e non è un'autocitazione egocentrica, ma parlo della serie televisiva, parlando alla Boris, in cui non sembra una cagna maledetta, ma anzi ha una sua grazia, una sua bravura, e ovviamente quel viso antico viene aiutato da un certo uso dei costumi. Un film grazioso che non passerà alla storia, ecco, ma grazioso forse è esattamente la definizione giusta. La sua dimensione. Bene, allora, questo è Adaline, l'eterna giovinezza. Fra poco siamo di nuovo qui a parlare di cinema, e ci aspetta un'altra intervista con Duccio Chiarini, autore di un grande exploit nella sua opera prima, che si intitola La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma, come promesso, comincia con un bel exploit di un giovane regista italiano, Duccio Chiarini, che firma Short Skin, che ha cominciato il suo percorso, io l'ho visto a Venezia perché c'era una cosa che si chiamava Biennale College, dove c'erano dei film che erano stati finanziati proprio grazie anche alla Biennale di Venezia, e fra questi c'era Short Skin, fulminante, film davvero delizioso per ritmo, tenuta, recitazione, naturalezza, per un tema che adesso scopriremo insieme, delicato, che poteva essere sempre lì per lo scadere nella burla, invece è tenuto in una maniera direi soave. Poi a Berlino, il secondo passaggio importante, anzi quello della consacrazione ufficiale vera di questo film, adesso nelle sale. È con noi Duccio Chiarini, che saluto. Ciao Duccio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ascoltiamo insieme questa clip tratta dal tuo film, poi fra poco ne parliamo. Ma perché mi devi rompere i coglioni? Ma come romperti i coglioni? Ma vorrei andare a caprare in questo stato. Ma che stato? Sei vergine. Quella è stata 3 anni con il rugbista di Milano. A parte nel rugbista e poi sono lasciati. Cosa vuol dire? Paragone scatta lo stesso. Ma perché devo chiamare una puttana? Per tutto, ti dà una mano, dolori, eiaculazioni precoci, blocchi mentali. Dolori? Tromba con una tre come tirare una salsiccia in un vicolo. Vabbè, però volendo posso anche farmi fare una sega e basta, no? Ma sei scemo? Cioè, una sega a 150 la faccio io. Allora, uno dei momenti di maggiore comicità nel rapporto fra questi due amici, il 17enne Edoardo ha un problema. Tecnicamente ha un prepuzio troppo stretto che non permette al glande di uscire come dovrebbe, e per via di questa short skin, di questa pelle corta, non può avere una vita sessuale soddisfacente, diciamo nemmeno fra le mura domestiche. E questo per questo ragazzo è un problema che diventa ovviamente psicologico, diventa una sorta di autoresistenza all'approcciare le ragazze, soprattutto questa dirimpettaia bianca che è sempre stata l'amica, ma dalla quale lui sente di volere a un certo punto qualcosa di più. Gli amici lo spingono verso questa iniziazione, diciamo così. Il superamento della linea d'ombra avverrà con grandissime fatiche, anche con una famiglia bella e scombinata che lo accompagna. Duccio, la prima domanda che mi viene in mente è: come ti è venuta in mente questa idea? L'idea nasce dalla voglia di fare un film in tempi brevi, quindi dalla voglia di scrivere qualcosa di cui poter avere il totale controllo, non aspettare troppo tempo per cercare finanziamenti. Quindi sono andato a pescare nei ricordi, nei cassetti delle mie esperienze di gioventù. Avevo letto un fumetto di Gipi che si chiama La mia vita è disegnata male, in cui Gipi, con la sua grazia, la sua poesia, racconta tutte le goffaggini di una visita dall'andrologo, che per noi uomini è sempre un momento topico, e ispirato da quella sua schiettezza, da quella sua onestà, sono andato a riprendere dei ricordi miei di una cosa simile che mi era successa a 15-16 anni, e ho buttato su carta, così, nero su bianco, tutti i ricordi di quello che era per me l'amore all'epoca: la voglia di entrare a far parte del gioco, la paura e quel problema là che racconto. Poi, con l'aiuto di Ottavio Madeddu, Marco Pettinello e Miroslav Mandic alla sceneggiatura, abbiamo ampliato il raggio e quindi abbiamo raccontato, come dicevi tu, una storia un po' più grande, nel senso, una storia che parla delle responsabilità, dell'affetto, dell'amore, del sesso, partendo da questo prepuzio troppo stretto soltanto come un gancio narrativo. Ecco, la cosa bella, tra le cose belle, sono tante nel tuo film, c'è quella del fatto che questa condizione, diciamo, del protagonista non diventa mai motivo di avvilimento, cioè non diventa mai un motivo per cui, non è poi il crinale vero della storia, ma alla fine tutto si sposta in una maniera più metaforica, se vogliamo, no? Questo problema fisico diventa metafora anche di una serie di temi che deve affrontare e superare il protagonista. Sì, è una sfida, è la vita che chiama a prendere delle responsabilità e a mettere la testa fuori da un finestrino. E appunto, come dicevo, è una metafora, ma è anche qualcosa, un viaggio un po' più grande, per cui il personaggio, che all'inizio sembra così fragile, indifeso, laddove tutti sono forti e lo pressano e lo spingono, forti nelle loro certezze, poi si invertono questi ruoli e il personaggio, man mano che acquisisce forza e potenza, vede perdere, no, di consapevolezza gli altri attorno a sé. Senti, come hai lavorato sul cast? Perché hai scelto personaggi veramente normali, non sei andato a cercare personaggi, attori che avessero, diciamo, quell'annullamento del difetto fisico, quel fascino aggiunto, no? Che tante volte si mette, invece sono proprio i ragazzi che troviamo sotto la scuola o nella porta accanto. Sì, la fase del casting è stata la più bella, la più faticosa, la più estenuante. 3 mesi passati in giro per la Toscana a cercare ragazzi che venivano non dalle scuole di cinema, ma proprio dalle scuole, dai licei, da piccoli teatri, e la voglia di raccontare insieme a loro, soprattutto insieme ai loro volti, ai loro corpi. È un film in cui si sta molto vicini, anche mi sento, insomma, quello che ho cercato di fare è stare vicini molto anche alla fisicità, no, dell'adolescenza, nelle sue imperfezioni, nelle sue goffaggini. E poi ho trovato Matteo Creatini, che è uno splendido Edoardo, Nicola Nocchi, Arturo, Bianca Ceravolo, la sorellina, Francesca Agostini, Bianca, questi ragazzi che, con i quali abbiamo fatto un lavoro molto lungo sul creare delle vere e proprie relazioni che andassero oltre lo schermo, tempo passato assieme mentre io producevo e organizzavo le riprese, li mandavo da soli a farsi pomeriggi per diventare veramente amici, o comunque provare a creare quella parte di iceberg che poi non si vede, no, dello schermo, ma che ti dà il senso di un'esistenza ulteriore. Assolutamente, quella relazione, le radici del film, diciamo così, no? Il fatto di stare, di raccontare qualcosa che poi arriva, e in effetti arriva come verosimile. 83 minuti davvero di divertimento, delicatezza, dolcezza. Guardiamo i nostri ragazzi e li vediamo come li vediamo anche davanti ai nostri occhi, con i loro problemi, ma anche la loro grinta, la loro voglia comunque di trovare sempre una via di uscita. Grazie davvero a Duccio Chiarini, grazie per essere stato con noi e grazie di questo Short Skin, a cui auguriamo lunga vita al cinema. Grazie a voi, e vi, insomma, se volete andarlo a vedere, siamo molto piccoli, per cui andate questo fine settimana che abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Assolutamente, sono 21 sale cinematografiche già in questo weekend, un po' sparse in tutte le regioni, nelle città più importanti il film c'è, Short Skin, andatelo a vedere e non perdetevelo. Ebbene, allora, detto di Short Skin, noi a questo punto giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. È finito il mondo e la vita per me e per tutti quelli che pensano e sentono. Sicché non vivono fino alla morte, se non quei molti che restano fanciulli tutta la vita. La Rosa Purpurea, @radio24.it, parole che non dovrebbero lasciare, diciamo così, indifferenti i nostri giocatori. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, e provate a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. 25 aprile, Liberazione, Seconda Guerra Mondiale, arriva in sala un film che racconta un episodio, un aspetto, ed è sorprendente che ce ne siano ancora tanti da raccontare al cinema, della resistenza sull'Appennino tosco-emiliano. Inverno 1944, a combattere contro i tedeschi ci sono, e insieme ai partigiani ci sono, c'è una pattuglia di soldati brasiliani. Il film si intitola Road 47. I tedeschi stanno bruciando tutto. Andiamo a San Giusto, stanno per arrivare gli americani. Passa! Oh, io italiano! Italiano, io amico! Non siete americani? Brasiliani. Andiamo a sminare a 47. Pericoloso. Los, faccia! Questo va ucciso e basta. Vai direzione strada 47. Io so dove. Ci fa perdere un sacco di tempo, che fai? Siete completamente matti. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, l'alleato che non ti aspetti. Sergio Urbini nel ruolo dell'italiano, un po' del catalizzatore di questi soldati brasiliani che in quel dicembre del 44 diedero il loro contributo in mezzo alle nevi dell'Appennino tosco-emiliano per liberare l'Italia dai nazisti. Eh sì, è un film che andrebbe visto solo per ciò che racconta, nel senso che l'alleato che non ti aspetti, anche perché i libri di storia ce l'hanno tenuto piuttosto nascosto, tutto vero, per carità, ma considerato appunto dagli storici cosa marginale, quindi non raccontandoci, nonostante insomma si parli della famosa strada 47 lungo la linea gotica, si parli di una partecipazione e di un aiuto a quella guerra non marginale. Però sappiamo che la storia la scrivono i vincitori e la scrivono un po' come vogliono, e ovviamente forse questo aiuto da parte dei brasiliani, come un tempo era successo per quanto riguarda gli indiani, è sempre scomodo da riconoscere e raccontare. A raccontarlo ci pensa Vicente Ferraz, che è uno che visivamente è molto bravo, ti regala momenti importanti, allo stesso tempo però è molto attaccato alla storia, alla capacità di entrarci dentro, e riesce a superare pure lo straniamento che noi italiani per forza proveremo rispetto agli stranieri, perché al centro di questo racconto c'è un Sergio Rubini che chiaramente si staglia tra volti sconosciuti, a noi sconosciuti. La cosa bella secondo me del film, che sicuramente è il migliore insieme a Short Skin di questa fine settimana, è il fatto che non ci sia retorica, non ci sia alcuna intenzione di rendere epico qualcosa che non lo è stato, ma allo stesso tempo nemmeno di denigrarlo, e dall'altra parte che recuperi la tradizione dei film di guerra, sia della cinematografia di riferimento di Ferraz, ma sia della nostra, dove comunque si è sempre un po' al limite del cialtronismo, non si dimentica mai che la guerra è combattuta da persone comuni, e in quanto persone comuni spesso sono portate a reazioni che potremmo avere tutti noi nel mondo reale, non solo in una situazione del genere, e questo rende tutto profondamente vero, profondamente reale e profondamente empatico, per cui noi ci ritroviamo come questi brasiliani in Italia, disorientati e però coinvolti. In questa situazione in cui non c'è memoria, a un certo punto si vede una macchina fotografica rotta, come a voler dire, non troverete immagini se non questa, di questa partecipazione, quel disorientamento dei brasiliani e anche quello dello spettatore, che però è coinvolto, proprio come lo sono quei soldati. Ecco, in un film di guerra trovare questo equilibrio è molto difficile, secondo me questo piccolo film, ma neanche tanto piccolo, ci riesce e gli va a merito, e ripeto, a mio parere, rispetto ad Avengers, che potete tranquillamente saltare, questo e Short Skin sono due piccoli gioielli che non dovete perdervi. E allora, promosso anche Road 47, adesso sentiamo le ultime sulla viabilità. Ci manca un film, si intitola Samba, ne parliamo fra poco. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Vi abbiamo detto che mancava un film, si intitola Samba, ma col Brasile stavolta c'entra poco. Lo dirigono Eric Toledano e Olivier Nakache, è la coppia che aveva firmato 4 anni fa Quasi Amici, successo planetario che ricorderete senz'altro, e che in questo film un po' ripercorre quel tipo di percorso, di plot, donna borghese, ragazzo di colore immigrato, che a un certo punto si rendono utili l'un l'altro. Beh, Alice, le presento Wilson, un mio amico. Hola, princesa. È del Portogallo? No, no, per niente, brasileiro. È un film e un stagio de film de studio in San Paolo. Questo è un segno, eh? Su, venga, andiamo a ballare. Ha ragione, venga. No, io non ballo. No. Perché? No, io non so ballare. Fate lei, tengo il piatto. C'è niente di male. Allora, avete sentito Samba, senegalese, da anni in un centro d'accoglienza vicino Parigi, in attesa del tanto sospirato permesso di soggiorno, ma anche con la paura di dover essere cacciato dalla Francia. Si rivolge a un'associazione che si occupa di queste cose, e lì la persona a cui viene affidato è Alice, una giovane donna borghese, Charlotte Gainsbourg, mentre lui è Omar Sy, l'attore anche già di Quasi Amici. Fra i due, ovviamente, mi viene da dire, nasce una relazione, però Boris, in questo film, forse che ripercorre, come dicevo, in maniera anche abbastanza precisa lo schema del precedente Quasi Amici, forse qui ha un peso maggiore la realtà, un peso maggiore il tema dell'immigrazione, per esempio, e che di questi tempi e di questi giorni proprio è un tema sempre da affrontare, in questo caso anche in commedia, per capire, per rendersi conto di come anche in altri paesi quella pressione migratoria sia presente e sia problematica. Ma sì, è come se Nagash e Toledano si trovassero più in difficoltà a raccontare due persone che sono divise semplicemente dalla provenienza e che però hanno una vita completamente diversa, rispetto a due persone che hanno fisicamente due approcci completamente contrari alla vita. Probabilmente cambia anche l'approccio comico di Samba, perché laddove c'era una comicità, una commedia aperta, adesso si cerca invece un'ironia più intima, più dolce, e poi qua vogliono fare una commedia sentimentale, cosa che non era appunto Quasi Amici. Cosa ne esce? Ne esce un film molto meno travolgente e divertente di Quasi Amici, ma forse più maturo, più interessante, che poteva essere forse un filo più coraggioso. Toledano e Nagash vanno molto per schemi, non hanno chissà quali uscite, quali salti di qualità nell'aspetto estetico, però fa il suo. L'unico grande difetto secondo me è la figura di Taher Rahim, molto interessante, compare all'inizio, ricompare a metà e poi ce lo perdiamo, e forse lui poteva essere effettivamente il salto di qualità di Samba. Nel complesso comunque un film sufficiente. E allora, grazie Boris Sollazzo. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La canzone che sentite, immortale, forse la canzone più famosa del musical The Rocky Horror Show, ve la facciamo sentire perché il 5 maggio fino al 20 maggio al Teatro della Luna di Milano arriva il Rocky Horror Show direttamente da Londra, compagnia londinese, tutto in originale, uno spettacolo imperdibile, e che infatti alcuni ascoltatori, quattro fortunati ascoltatori della Rosa Purpura, non perderanno, perché i primi due che ci scriveranno, ci manderanno un sms al 349 238 6666, ripeto 349 238 6666, già da questo momento, scrivendo semplicemente il loro nome e Rocky Horror Show, riceveranno due coppie di biglietti per andare a vedere il 5 maggio alle 21 al Teatro della Luna The Rocky Horror Show. Ne parleremo poi nel corso delle prossime puntate della Rosa Purpurea, forse anche con interviste ai protagonisti della cast londinese. Ripeto ancora il telefono 349 238 6666, la data dello spettacolo 5 maggio ore 21 Teatro della Luna, due coppie di nostri ascoltatori per un totale di 4 persone a vedere The Rocky Horror Show. E a proposito di iniziative della Rosa Purpura, come dicevo, è arrivato anche il momento di proclamare il film vincitore dell'iniziativa Una Mattina, almeno vincitore per noi, per i nostri ascoltatori, 5 settimane per dirci qual era il vostro film preferito fra quelli che hanno raccontato, fra 50 film che hanno raccontato la Seconda Guerra Mondiale e la liberazione, in questo progetto insieme alle cooperative, all'Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia. Ebbene, ha vinto Roma Città Aperta. Roma Città Aperta è il film degli ascoltatori della Rosa Purpurea che verrà proiettato proprio in occasione di questo 25 aprile. E a questo punto noi siamo in collegamento con Giulio San Giorgio. Cominciamo subito, perché abbiamo pochissimo tempo, con la soluzione della DVD Game della settimana scorsa. Se mia zia fa domande, siamo stati a scuola tutto il giorno, capito? Siamo saltati giù da una finestra! No! Silenzio! Siamo saltati giù da una finestra! Si trattava di Big Hero 6, film Disney Pixar che ha aperto la stagione cinematografica quest'anno e che adesso arriva in versione Blu-ray. Lo hanno indovinato per primi, e quindi lo vincono e lo riceveranno a casa, Gianmaria Busatta di Verona e Marco Albagini di Spoleto. E allora noi ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV e da Giulio San Giorgio, che è qui con noi, cosa c'è dentro questa edizione in Blu-ray. Ciao Giulio. Ciao Franco. Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è il primo classico Disney ispirato a personaggi Marvel, della storia di un piccolo genio e di un morbido robot programmato per assistere i malati, che forma con lui un supergruppo, appunto i Big Hero 6, per fermare il super criminale responsabile della scomparsa del fratello. In 4 edizioni noi abbiamo visto la slipcase con Blu-ray 3D e Blu-ray, in cui il livello di resa dei dettagli permette di ammirare l'art direction del film in tutta la sua vera magnificenza. Ottimo l'audio, anche se ovviamente quello italiano è meno potente e coinvolgente di quello inglese. Tra gli extra ci sono il bellissimo corto Winston, un corto di Topolino, la genesi del primo incontro fra l'animazione Disney e i fumetti della Marvel, e una breve tavola rotonda con gli animatori e scene eliminate via storyboard del cartoon. E allora, questo per quel che concerne Big Hero 6, il nostro game della scorsa settimana. Diamo un'occhiata invece ai palinsesti TV per pescare come al solito due chicche. La prima, martedì 28 marzo alle 13.30, è Ore Disperate. Un assassino evaso e i suoi complici in fuga si rinchiudono nella casa di un padre di famiglia sul ruolo di un divorzio e di una crisi di nervi. Seguono 40 ore da incubo. Michael Cimino affronta con protagonista Mickey Rourke lo strepitoso esercizio di claustrofobia girato da William Wyler con Humphrey Bogart, parafrasandolo con personaggi maggiormente caricaturali e con deragliamenti quasi western, veramente paradossali e in plein air, che squarciano i luoghi chiusi e la loro unità, la loro armonia. Un film veramente geniale, pur essendo su commissione Dino De Laurentiis e Fox, che ci fa ricordare la grandezza di Cimino, e regala tra l'altro alla tostissima detective Lindsay Cruz il ruolo della vita. Questo per quello che concerne Ore Disperate. Invece venerdì 1 maggio alle 7.10 del mattino, e il giorno è festivo, magari puntate il registratore, c'è una degli episodi di commedia fantascientifica più incredibili e surreali del cinema italiano, si intitola Omicron. Sì, un operaio viene trovato morto, ma le cose non sono esattamente come sembrano. Nel suo corpo si è infatti installato un extraterrestre che prepara l'invasione della Terra, Omicron. È un apologo satirico e critico di fantascienza realista molto sardonica, con un occhio al godard di Alphaville, nato da un'inchiesta sui lavori Fiat pubblicata da Giovanni Carocci. Il film, che è di Ugo Gregoretti, è un'analisi impietosa e francamente molto molto divertente, una sorta di film dove gli ultracorpi sono un operaio senza coscienza e non solo quello di classe. Infine, quando si tratta di invadere il pianeta, gli ultracorpi sono i padroni. Sottovalutato all'epoca e sostanzialmente dimenticato da tutti, è veramente un raro caso di commedia fantascientifica e operaia che passa anche attraverso il comico basso. Per quanto mi riguarda, è veramente un grande cult da recuperare. Assolutamente, grande occasione quindi alle 7 del mattino del primo maggio. Grazie Giulio, ci sentiamo. Ciao Franco, alla prossima. E allora, abbiamo concluso la nostra corsa, buon prosieguo di giornata, di questa giornata festiva. Noi ci risentiamo sabato prossimo qui alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.